e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Oggi ti faccio fare una full immersion nei mercati finanziari che non te la scordi più finché campi. Guarda, sono pronta. Accendiamo anche il microfono. Non sì, è ma... stato sì, ma, faraggio a sabotarlo. Io. Eccolo qua. È Carmelo. Molto, molto più vicino. Eccoci qua. Allora. No, io sono assolutamente pronta. D'altra parte, sai, è un bello shock perché ci siamo andati a dormire con la tranquillità che la Gran Bretagna rimanesse nell'Unione e al risveglio abbiamo dovuto fare i conti con una situazione, una bella doccia fredda. Allora, hai utilizzato la parola giusta, anche se ho notato già dalle prime dirette che abbiamo cominciato a fare questa mattina che a molti ascoltatori utilizzare il termine shock non piace, non mettete panico. Effettivamente hanno anche ragione per certi versi, perché queste giornate così con cali così marcati noi ne abbiamo viste abbastanza spesso purtroppo in questa crisi finanziaria che dura da quasi 10 anni, e però è scioccante quello che accade questa mattina, perché per la verità, come tu dicevi, io sono stata in diretta fino a l'una questa notte con Anna Migliorati, Gigi Donelli e Marta Cagnola, nessuno se lo aspettava, almeno a giudicare dalle prime indicazioni di voto e anche a giudicare da come stavano andando i mercati negli ultimi giorni. Ti ricordi, l'ho raccontato spesso, in tutti, quasi tutti appunto scommettevano in realtà sulla vittoria del Remain, per uno cui... scenario completamente diverso. Insomma, esatto. Siamo andati a letto pensando l'Unione fa la forza, ci abbiamo sempre creduto, abbiamo cercato, no, di crederci, e adesso forse dovremmo pensare ognuno fa per sé. Allora sarebbe interessante, infatti, anche so chiedere che ai te nostri ne occuperai ascoltatori nella seconda parte un po' della le emozioni che hanno provato, no, in mezzo a questo disorientamento. È una ricetta che è fatta di tanti ingredienti: c'è la delusione, c'è la rabbia, c'è il senso di abbandono, la paura, un anche un pochino dell'ignoto, perché adesso certo, qua lo scenario politico, economico e finanziario che si apre è altrettanto imprevedibile, esattamente come la giornata che si è aperta questa mattina sui mercati finanziari. Faccio un po' un riepilogo della situazione e poi ti presento Nicoletta, tutti gli ospiti che abbiamo interpellato questa mattina per raccontarci cosa sta succedendo nelle sale operative. Ovviamente ne abbiamo disturbati un bel po' che sono a Londra, ma anche coloro che sono in Italia, che sono in filo diretto con nelle loro rappresentanze anche londinesi. Peraltro stanotte con i nostri ospiti che abbiamo intervistato proprio per fare un focus sui mercati finanziari, abbiamo ragionato a lungo sul fatto di venirsene via da Londra, perché molte grandi case di investimento, i più grandi fondi di investimento, già da giorni dicevano: attenzione che se vince Brexit noi siamo pronti a fare le valigie e a portare le nostre sedi altrove. E ieri sera dicevamo: sì, ma dove vanno? Quali sedi potranno scegliere? È comunque conveniente per loro fare tutte queste operazioni, anche perché teniamo conto che ormai per la Gran Bretagna questa uscita dall'Unione Europea significa portare avanti adesso dei negoziati che andranno avanti 2 anni, per cui anche un po' ventilare questa ipotesi di allandarsene immediatamente, quasi una sorta di dispetto contro questa Londra traditrice, ci sembrava un po' strana. Ma adesso lo chiederemo ai nostri interlocutori di Londra. Faccio un veloce punto della situazione sull'andamento dei mercati. In questo momento il quadro è stato negativo in Asia, ma non nella stessa misura per tutte le piazze, perché per esempio l'Hang Seng di Hong Kong perde circa il 3%, Tokyo ha chiuso con un ribasso di quasi 8 punti, l'Europa, partita malissimo, sta prudentemente un tantino addirittura risollevandosi. Francoforte perde 6 punti, Parigi meno 7,5 punti, Londra meno 4. Non mi stupirei se nel pomeriggio la situazione a Londra cambiasse addirittura e volgesse, non dico tanto in positivo quanto migliorasse letteralmente. Lo Stoxx 50 perde il 6,5%, e tanto per cambiare la peggior piazza d'Europa, chi è? Milano. Meno 10 punti, ed è stata veramente curiosa stamattina la situazione che in apertura si è manifestata a Piazza Affari, perché non c'era nessun titolo bancario che riusciva a fare prezzo. Tanto per raccontarvi qualche storia, c'era qualche titolo che in preapertura perdeva il 50%, Mediolanum meno 46, Leonardo Finmeccanica, che non è bancaria ma ha un business molto esposto alla City a Londra, perdeva qualcosa come quasi il 40%. Adesso invece c'è un quadro ancora molto negativo, con perdite a due cifre per quasi tutti i titoli quotati, ma perdono molto meno rispetto per esempio ad un'oretta fa. Vi faccio un punto della situazione: Intesa San Paolo meno 20, Banco Popolare meno 19, Pop Milano meno 18, Pop Emilia Romagna meno 17, meno 17,5 anche per Mediobanca, Unicredit meno 16 per Monte dei Paschi e Unipol. Anche Monte dei Paschi tracollava letteralmente, è finita più volte in asta di volatilità, non riusciva a far prezzo. Non abbiamo nessun titolo positivo, però ne abbiamo qualcuno che perde in misura ragionevole: Italcementi meno 0,28, Luxottica meno 2,24, Salvatore Ferragamo meno 3, Recordati meno 3. Insomma, qua qualche titolo più che si salva anche da questa ondata di vendite. Il tema è capire anche cosa succede sul mercato valutario, perché la sterlina questa mattina dai mercati asiatici in avanti precipitava letteralmente ai minimi da 30 anni a questa parte, e poi grosso fermento anche sul mercato delle obbligazioni e l'oro, che tutto sommato invece ci si aspettava che aumentasse molto nella tradizionale corsa ai beni rifugio quando ci sono queste fasi di incertezza, sta invece sulle quotazioni degli ultimi giorni, $1,330 l'oncia, quindi in realtà non ha fatto neanche niente di particolarmente spumeggiante. Insomma, spero di aver lasciato qualche cosa da dire a Stefano Gianti, analista di SwissQuote, che è a Londra. Naturalmente ha fatto notte, Gianti? Credo di sì. Fatto notte, grandissima volatilità, soprattutto a partire dai primi minuti, quando iniziano a uscire i primi dati, già dal primo punto percentuale comunque si è capito che stranamente era già in vantaggio la potenziale Brexit, e poi di fatto così è stato, quindi grandissima nottata, il risultato ha stupito un pochino tutti, e la sterlina che prima saliva e poi ha fatto un tonfo del 10% in 4 ore, clamoroso. Esatto, allora un risultato che ha stupito un po' tutti o è stato un risultato proprio completamente e abbastanza sottovalutato, Gianti? Perché adesso è facile dire sì, siamo stupiti, ma in realtà diciamo per come stavano andando le cose fino all'una di questa notte mi pare che come dire le indicazioni anche fino a quando sono state completamente contrarie in quel famoso risultato elettorale appunto ribaltato rispetto poi all'esito finale, in molti la pensavate in maniera radicalmente diversa, anche in quella maniera la pensavate negli ultimi giorni, a giudicare da come avete puntato tutti quanti sul mercato azionario, obbligazionario e valutario. Gianti. È vero decisamente che negli ultimi 2 mesi comunque non c'è mai stata una certezza del remain o del leave, in particolare si diceva sempre che in molti, grosso modo il 16%, poi i sondaggi diversi danno numeri diversi, il 16% era ancora indeciso, poi c'è stato un importante dibattito tra Boris Johnson e Sadiq Khan 2 giorni fa, è stato molto probabilmente decisivo, ha spostato davvero molti voti, Boris Johnson è un ottimo comunicatore, abbiamo avuto Londra tendenzialmente che ha votato per il remain, soprattutto ovviamente nella FIT, nella piazza finanziaria e nel settore delle tech, però il resto dell'Inghilterra e del Regno Unito invece ha votato diversamente, in alcuni casi abbiamo visto anche 80% di leave contro soltanto 20% di remain, e tutto sommato nelle ultime ore poi si è sempre visto il leave in testa, si è arrivati poi a 1.300.000 voti addirittura in più, che non sono assolutamente pochi sui 17 milioni che devono portare di conseguenza alla vittoria. Tutto si è visto sui mercati finanziari, effettivamente come ribadivi prima Deborah, negli ultimi giorni sembrava la situazione più tranquilla, ieri addirittura il FTSE 100, il principale indice della borsa di Londra, andava a sfiorare i noi lo chiamiamo banalmente FTSE 100 quanti? Gianti, sì, no, SwissQuote, già ho fatto l'acronimo tra 500, esatto. L'indice americano ha sfiorato davvero anche i massimi un'ora prima di quando iniziano a uscire i risultati e poi è crollato drasticamente. Parliamo in questo caso dello Standard & Poor's 500, dei massimi storici addirittura. Ora la situazione è completamente contraria, il nostro listino, come citavi prima, ha perso addirittura in gap negativo, molti titoli non riuscivano a fare prezzi, meno 10%, però una cosa che voglio evidenziare, si parlava di panico, c'è stato panico comunque in particolare ovviamente sulla sterlina, ma così assolutamente non è solo obbligazionario. Il bond, esatto, infatti sarebbe stata la prossima domanda, esatto. Ma addirittura il gilt del Regno Unito addirittura è stato ben comprato con un rendimento minimo del periodo a 1,10%. E questo perché il mercato obbligazionario è rassicurato dalla rete di protezione che già esiste da tempo della Banca Centrale Europea, Gianti? Decisamente sì, però anche Mark Carney, il presidente della Bank of England, si è esposto già da 2 mesi, Mark Carney, che tra l'altro è stato criticato molto perché il presidente della Banca Centrale del Regno Unito non dovrebbe esporsi politicamente, però negli ultimi 3 mesi diciamo che hanno fatto i supplenti della politica e i banchieri centrali. Potenziali quali potranno essere. No, stavo dicendo che comunque è inutile che si lamentino del fatto che il governatore appunto della banca inglese si pronunci anche in termini politici quando le banche centrali si sostituiscono alla politica ormai da anni nell'intervento appunto che fanno a protezione dei mercati finanziari. Senti, invece poco fa è intervenuta la Banca Nazionale Svizzera sul mercato dei cambi per stabilizzare il franco. Perché il franco subiva particolari contraccolpi da questa situazione? Decisamente sì, indirettamente, nel senso che lo yen giapponese e il franco svizzero sono storicamente, insieme all'oro e il bund tedesco, degli asset, dei titoli che vengono comprati quando i mercati crollano. Io ho evidenziato infatti sul mio grafico una barra rossa orizzontale sul livello di 1,0650 sul cambio euro franco svizzero, cioè se il prezzo fosse sceso sotto questo livello, a mio avviso la Banca Nazionale Svizzera sarebbe intervenuta, così ha fatto, perché comunque non vuole assolutamente un franco svizzero troppo forte, la Banca Nazionale stessa, e quindi interviene sul mercato valutario per cercare di deprezzarlo, di contenere l'apprezzamento, perché infatti abbiamo visto un importante afflusso di liquidità sull'oro, sul bund tedesco, sullo yen giapponese e sul franco svizzero, che sono per eccellenza le asset class che vengono comprate quando i mercati crollano, il cosiddetto bene rifugio. Senta Gianti, poi la lascio perché abbiamo una serie di ospiti da sentire. Londra adesso sta facendo meno 3,9%. Non è che questi qua ne approfittano nel pomeriggio per dire: sai che c'è, quasi quasi vado in positivo, ho mandato nel panico tutte le altre piazze finanziarie, ma noi diamo anche questo segnale, siamo distanti da tutti, anche la nostra piazza finanziaria, puntiamo su questa oggi e la mandiamo in positivo nel pomeriggio. Che segnali vedete? Questo. Si dice sell on the rumor, buy on the news, cosa vai a fare? Vai quando c'è la notizia che deve ancora uscire o sta uscendo, si sta sviluppando, vai a scaricare molti titoli eccetera eccetera, poi ti vai a ricoprire quando ormai la notizia è effettivamente uscita, perché ricordiamo che tutto sommato verso le 4 di stanotte la BBC aveva ufficializzato ormai che era impossibile che con i voti che mancavano il Remain avesse potuto recuperare, quindi ormai sono passate già 6 ore da quando la BBC l'ha ufficializzato. Il movimento di questa notte è stato davvero marcato, addirittura proprio molti indici europei hanno aperto proprio in gap ribassista, quindi è normale che nell'arco della giornata ci possa essere un leggero recupero delle quotazioni. Questo si è visto anche sulla sterlina, non dimentichiamoci che la sterlina ha perso il 10% in 6 ore soltanto e ora ha recuperato 2-3 punti percentuali, che in una giornata di trading normale 2-3 punti percentuali sono molti, ma dopo un sell-off, una perdita del 10% è tutto relativo. Gianti, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, perché grazie, so che lei non avrà neanche il tempo di un pisolino, del famoso pisolino postprandiale. Beh, oggi a Londra non fa nessuno, Nicoletta. Sì, però basterebbe mezz'oretta, perché hanno bisogno anche loro di ricaricarsi. Si mette esatto. Una mano sul cuore. E che prendano un caffè decente, un caffè decente, non quell'acqua sporca che sono abituati a bevere, a bere appunto nelle aree anglosassone. Allora abbiamo il traffico adesso, quindi tutto procede, diciamo, da palinsesto regolare. Andiamo, poi torniamo con tantissimi. Esperti, ah sì, abbiamo ospiti, Enrico Bovalini, pronto, di Pioneer Investment, ma poi ne sentiremo anche altri. Da Londra a tra pochissimo. Cuore e denari. Una versione del tutto speciale, se mi chiudi l'interphone Carmelo mi fa comodo, grazie, se no sento un eco pazzesco. E qua siamo un po' tutti in emergenza stamattina. Poi se apriamo ancora anche il microfono di Nicoletta, ecco, è utile. Ma perché noi ci siamo, possiamo dirlo, scambiate di posto. Per è vero. Oggi ho bisogno di un presidio diverso stamattina. Tre monitor davanti. Neanche io sono fossi una delle più accanite trader dell'universo. Invece vorrei che fosse molto chiaro ai nostri ascoltatori che nonostante io racconti i mercati finanziari dalla mattina alla sera da molti anni a Radio 24, non posso prendere posizioni in nessun titolo, perché in realtà sono oggetta anche a dei controlli interni. Quindi è molto importante. Quindi non sto approfittando di questa situazione, non sto speculando su nulla. Intanto sto controllando un po' le agenzie sui commenti che stanno continuando ad arrivare rispetto alla inedita posizione appunto dell'elettorato britannico, inedita almeno rispetto a quello che ci si aspettava fino a ieri. E c'è intanto anche chi sta facendo dei paralleli su altre situazioni molto difficili che abbiamo vissuto in passato. Io prima ricordavo in apertura appunto di borsa come non ricordassi a memoria in tempi recenti una giornata come questa. Le ultime che abbiamo vissuto difficilissime sono state a ridosso del crollo di Lehman Brothers, e per molte settimane abbiamo visto giornate come questa, mercati che facevano meno 7, meno 8, meno 10 per poi recuperare tutto il giorno dopo e riprecipitare di nuovo. Certamente però delle preaperture con le banche a meno 30-40% forse non le ricordo neanche in quel frangente là, per cui abbiamo anche oggi scritto una pagina di finanza nuova. Esatto, non solamente dal punto di vista della finanza, delle conseguenze economiche, finanziarie e politiche, però anche dell'immagine che ciascuno di noi ha coltivato dell'Europa confronti di questo progetto. E quindi penso che sia importante anche... Come affronterai tu dopo questo problema? Affronteremo, cercheremo di coinvolgere, come abbiamo fatto ieri, chiedendo agli ascoltatori di raccontarci il referendum che li ha messi un po' in difficoltà. Ciascuno di noi ogni giorno prende delle decisioni, abbiamo capito che ci sono dei meccanismi che ci fanno scegliere, che poi spesso le nostre decisioni pesano. Oggi chiederemo ai nostri ascoltatori di raccontarci che emozione hanno provato quando hanno appreso questa notizia, che cosa si è mosso dentro di loro, e dato che questo stordimento, come dicevamo, è fatto di tanti ingredienti, quali sono quelli determinanti? È l'abbandono, è la rabbia, la delusione? Insomma, cercheremo di vederci un pochino più chiaro e, come sempre suggeriscono gli esperti, quando la situazione ci sembra tanto lontana da noi è importante per comprenderla, trasferirla nel quotidiano. E quindi tante volte avremmo avuto un compagno, un socio, un collega che è uscito dal gruppo. Allora, Enrico Bovalini, responsabile gestione fondi bilanciati di Pioneer Investment, buongiorno. Buongiorno. Allora, anche lei ha fatto notte, oppure gli italiani si sono potuti risparmiare questa lunga notte elettorale, e questa mattina ha rappresentato questo risultato una sorpresa per le vostre gestioni? Allora, diciamo che io stanotte mi sono svegliato due volte per guardare come andavano le cose. A l'una di notte sembrava che andasse tutto bene, i primi exit poll erano positivi, e poi mi sono risvegliato alle 4:30, la situazione era diametralmente opposta. C'era qualcosa che le suggeriva di aprire un occhietto per andare a controllare qualche terminale, Bovalini. Esatto. Beh, insomma, uno non stava tranquillo sapendo che c'era questo evento. Dormiva ordinario. Preoccupato, insomma. Ecco, sì, diciamo di sì. E non solo per il caldo che c'è adesso. Infatti, senta, allora, tracollano tutte le banche. Riesce a spiegarci le motivazioni per cui sono proprio i titoli finanziari? Lo possiamo anche immaginare, ovviamente, in questa situazione di finanza globale. È chiaro che il mondo finanziario è quello che deve subire i contraccolpi più imponenti rispetto ad una situazione di crisi come quella di questa mattina. Ma riesce a spiegarlo in termini semplici ai nostri ascoltatori, Bovalini? Sì, beh, diciamo che... Poi magari do anche qualche percentuale, così almeno giriamo il coltello nella piaga. Sì, siamo fra meno 15 e meno 20 più o meno, quasi tutto il settore bancario. Sì. E il problema sono i tassi di interesse dei paesi periferici che stanno salendo, gli spread si stanno allargando e le banche sono chiaramente molto esposte a questi titoli, quindi più salgono i tassi sui bond della periferia, più c'è timore per la stabilità delle banche della periferia stessa. Hanno però problemi anche le banche core Europe, cioè le banche francesi, tedesche, perché anche per loro entrare in una situazione di rallentamento dell'economia e di aumento dell'incertezza porta comunque ad avere rischi sui crediti che fanno le aziende in giro per il mondo, quindi ci può essere un aumento delle perdite sui prestiti, che è il punto debole di queste banche, perché alcune sì si sono ricapitalizzate, però non in modo così forte come in alcuni paesi si vorrebbe. Poi c'è il problema delle banche inglesi, perché per le banche inglesi invece c'è un grosso impatto anche dal punto di vista operativo, molte hanno operazioni sia in Inghilterra che fuori, e quindi anche loro oggi stanno lasciando sul terreno fra il 15 e il 20%. Sono alla fine quelle più esposte, più levereggiate alla situazione attuale. Certo. Senta, Bovalini, allora parlavamo prima con il collega che l'ha preceduta dell'intervento che ha fatto questa mattina la Banca Nazionale Svizzera sul mercato dei cambi, appunto per arginare un po' gli effetti sul franco svizzero. Secondo lei invece questa famosa rete di protezione che avrebbero preparato nei giorni scorsi Mario Draghi, ovviamente l'intesa con la Bank of England, un po' meno si sarebbe esposta in questo senso la Federal Reserve, appunto in che cosa consisterebbe? Secondo lei metteranno in campo qualche cosa nelle prossime ore in termini di azioni sui tassi di interesse, anche se non so Mario Draghi cos'altro potrà fare, mentre forse un po' più probabile un intervento in questo senso potrebbe essere per la Bank of England. Cosa potranno fare? Beh, sul livello della Banca Centrale Europea mi immagino che facciano quello che si dice front loading, cioè anticipino gli acquisti che devono fare nel corso del mese, anche del mese di luglio e di agosto, sui titoli di Stato dell'area euro e anche sui titoli corporate, perché è lì dove adesso c'è la tensione maggiore. Infatti, se guardiamo stamattina, gli spread Italia-Germania era a 175-180, adesso è già rientrato di più di 20 basis points. Sì, è arrivato anche a 190 per ritracciare abbastanza rapidamente, sì. Quindi è molto probabile che intervengano sul mercato per... E che lo stiano già facendo. Poi sicuramente parlavano di aprire delle linee di credito fra le principali banche centrali del mondo, in modo tale che non ci siano scarsità di valuta, in particolar modo di dollaro, per evitare che il dollaro si rafforzi troppo, perché un dollaro troppo forte potrebbe poi creare una serie di scompensi anche per le economie dei paesi emergenti, quindi avrebbe delle ripercussioni molto serie a livello globale. Questo era stato già fatto quando era saltata Lehman e pensiamo che verrà fatto di nuovo anche adesso. Poi c'è la possibilità che la Banca Centrale Europea, questo non lo sappiamo per certo, è possibile, finora ha comprato solo titoli corporate di società non bancarie, potrebbe decidere di allargare l'acquisto. Ecco quella famosa munizione che potrebbe avere appunto in serbo da sparare, speriamo di no, prossimamente. Infatti lo abbiamo raccontato anche in puntate precedenti di Investire Informati, quando abbiamo parlato della partenza dell'acquisto di obbligazioni corporate da parte della Banca Centrale Europea. Abbiamo specificato più volte come in questo piano non fosse contemplato anche l'acquisto dei titoli finanziari, ma a questo punto, per arginare questa crisi derivante da Brexit, anche questo potrebbe succedere. Allora, mi dispiace per Luca Di Scacciati, che non faccio altro stamattina che chiamarlo per mandarlo in onda e non ce la e faccio. E poi lo rimandi. E invece adesso sentiamo il giornale radio, poi lo valorizzo per bene intorno alle 11:10 circa, per cui Luca tanto sta lì tranquillo davanti al terminale a monitorare la sterlina. E poi arriva a cuore, esatto, denari finalmente. A tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Come si trasforma una buona idea in un progetto di successo? Con l'innovazione, la creatività e la condivisione. Il sabato mattina Radio 24 diventa la voce del crowdfunding con Crowd Me Up, la rubrica dove le buone idee incontrano ottimi sostenitori. In collaborazione con Eppela, la principale piattaforma italiana di crowdfunding, e Back to Work 24. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding. Il sabato alle 9:30 all'interno di Si Può Fare con Alessio Maurizio. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, sta continuando la nostra lunga maratona, come la chiamerebbe l'amico Enrico Mentana. La facciamo anche noi, naturalmente, con un focus adesso prevalentemente dedicato alla reazione dei mercati finanziari alla Brexit, che è un risultato elettorale molto importante, perché si apre a questo punto non solo per la finanza ma anche per la politica, per la comunità mondiale, uno scenario nuovo, inedito, che non era stato forse in maniera sufficiente preventivato da tutti gli attori coinvolti in queste ore a presiedere riunioni d'emergenza, come per esempio sta accadendo a Roma, dove è riunito il Comitato di Stabilità Finanziaria, da cui emergono già delle indicazioni importanti. L'operatività dei mercati prosegue normalmente, lo stiamo vedendo per fortuna, anche se Milano è stata la piazza che questa mattina, con maggiori difficoltà rispetto a tutte le altre, è entrata in negoziazione per lunghissimi minuti. Molti titoli non riuscivano a fare prezzo, qualcuno aveva addirittura una preapertura con cali teorici compresi fra il 30 e il 40%, non che adesso le cose vadano molto meglio, ma le banche perdono tutte fra i 18 e i 20 punti percentuali. Le peggiori sono Pop Milano, Intesa San Paolo, Popolare dell'Emilia Romagna, il Banco Popolare, tutte le banche che sono già sotto i riflettori per problemi di natura domestica, la gestione delle sofferenze, le integrazioni che devono essere portate avanti, gli aumenti di capitale e quant'altro. Milano è la piazza peggiore d'Europa, perde 10 punti, Parigi meno 8, Francoforte meno 6,61 e Londra paradossalmente perde meno di tutte le altre, meno 4,74%. Ma facciamo un piccolo focus sulla tanto amata sterlina da Luca Di Scacciati, trader, analista finanziario di investire.biz, che dopo aver maltrattato a lungo stamattina, perché l'ho chiamato e gli ho fatto fare un collegamento di un minuto, adesso gliene faccio fare uno un po' più esaustivo. Luca, anche se non hai dormito neanche mezzo secondo stanotte, cosa dicono i tuoi terminali? Allora dici un po' il punto della sterlina in questo momento. Ed è vero che Londra, la piazza finanziaria di Londra, perde meno delle altre piazze europee proprio anche per effetto del fatto di negoziare con una valuta diversa rispetto alle nostre? Assolutamente, assolutamente, proprio perché la sterlina, come hai ricordato più volte questa mattina, è ai minimi da 30 anni, ci sono tantissimi investitori che stanno evidentemente cambiando per esempio i propri dollari in sterline proprio per fare acquisti sulla piazza londinese. Io vorrei darti un feedback dalla City dove mi trovo in questo momento, perché l'atmosfera oggi è davvero surreale, ma vorrei spiegarti il motivo per cui è surreale. Il motivo è che fino ad oggi, da diversi anni, quella che è l'FCA, ovvero l'ente regolatore nel Regno Unito, ovvero l'equivalente della Consob italiana, è stata l'autorità che fino ad oggi appunto ha definito gli standard europei in quello che è il settore finanziario. Quindi oggi tutti quanti siamo un po' disorientati, proprio perché non si sa bene che cosa succederà, ecco, come si comporteranno tutte le altre piazze finanziarie e cosa succederà appunto a questo regolatore che a quanto pare sembra che non dovrà più essere lo standard europeo. Ecco, quindi il motivo per cui siamo tutti un po' disorientati è questo. Ci racconti invece i movimenti più accentuati in questo momento sul mercato delle valute, Luca? Perché so che voi siete particolarmente operativi soprattutto sul mercato del Forex. Esatto, infatti volevo segnalare sul GBP USD, quindi sterlina contro dollaro americano, questa mattina dai minimi di 1,32 siamo passati, in questo momento siamo a 1,39, quindi un rialzo del 5,5%. Questo davvero è un rialzo incredibile per questa valuta, che di fatto si è riportata a dei livelli assolutamente accettabili. Questo per far capire ai nostri ascoltatori quanto ci sia anche ampio margine di guadagno per chi fa l'investimento mordi e fuggi, come nel caso di Luca Di Scacciati, che non è ovviamente da né denigrare né condannare il loro lavoro, però ci sono delle operatività intraday che stanno traendo grandissimo vantaggio da quello che sta accadendo stamattina in borsa. Quindi noi stiamo lontani come comuni mortali, ma ve lo lasciamo a voi questo campo. Di Scacciati, ecco, tenete presente che per esempio GBP USD solamente il 14 e il 15 di giugno, quindi pochissimi giorni fa, era esattamente a questi livelli. Da tenere monitorato in questo momento c'è l'oro, a mio avviso, che è un po' il barometro della paura sui mercati finanziari, e dopo uno spike, quindi un movimento repentino verso l'alto, è ritornato a prezzi, anche in questo caso a prezzi della settimana scorsa, dei mesi scorsi, siamo a $1,307 per oncia, e sono questi i livelli addirittura di inizio 2015. Quindi di fatto, l'hai ricordato anche tu, Deborah, più volte questa mattina, dicendo ma non potrebbe essere che le borse poi nel che Londra giri un po'. Esatto, esattamente. Questa è un po' la sensazione che abbiamo anche noi, stando qui davanti. Di fatto, a parte i ribassi sulle borse che chiaramente abbiamo visto tutti, con i bancari che hanno subito tantissimo, ma sulle valute bisogna dire che effettivamente dopo la volatilità iniziale non è successo un granché, perché se per esempio prendiamo euro contro sterlina, c'è stato un massimo sul livello di 0,83, ma in questo momento siamo precisamente a 0,8, che è esattamente il livello di inizio maggio. Quindi tutto sulle valute è abbastanza rientrato. Allora, intanto, peraltro, anche per far capire ai nostri ascoltatori come non tutti la pensino in termini nefasti e negativi, ci sono molti soggetti finanziari, sto guardando anche tra, non solo tra le agenzie, ma anche fra i miei canali appunto interni, ci sono molti colleghi di Scacciati o gestori di lungo periodo che in realtà stanno dicendo: guardate stamattina che occasioni incredibili di saldi in borsa ci sono. Questo per dire poi come da queste situazioni si traggono dei vantaggi enormi, se prezzi irripetibili. Se posso dare un feedback, noi per esempio questa mattina su alcuni bancari siamo entrati al rialzo, ci sono delle banche che noi riteniamo molto valide, per esempio sul mercato italiano Banca IFIS, Banca Generali. Banca IFIS per esempio in questo momento quota con a 20 e 70, ovvero con un PE addirittura al pari. La devo silenziare subito di scacciati, perché poi qua dicono che diamo delle indicazioni operative sul mercato e ci vengono a controllare. Comunque grazie Luca, buona giornata. Magari ne approfitteremo anche prossimamente per altri interventi. Intanto, come abbiamo raccontato anche moltissimo stanotte, nello speciale andato in onda ieri sera dalle 22 all'una, c'è appunto questa notizia che viene più o meno confermata da una mail interna agli uffici di JP Morgan, che sarebbe stata intercettata dalla France Press e che dice che la società potrebbe spostare dei posti di lavoro fuori dal Regno Unito dopo l'esito del referendum britannico. JP Morgan impiega 16.000 persone in Gran Bretagna, potremmo avere bisogno di apportare dei cambiamenti alla struttura del nostro soggetto giuridico europeo. È l'amministratore delegato Jamie Dimon che aveva detto prima del referendum che potevano essere spostati fra i 1.000 e i 4.000 posti di lavoro, e noi avevamo detto, questa ci sembra anche una sorta di indicazione al voto, ai dipendenti di dire votate, guardate, per il Remain, perché certo, sennò vi sposto tutti quanti. E non solo, anche questo colosso finanziario insieme a molti altri avevano anche pesantemente, in maniera importante, finanziato la campagna elettorale, l'avevano detto anche candidamente, quindi non c'era neanche nulla di segreto. Quindi, ti colpisce questa cosa? Sì, mi colpisce, è un po' della serie chi non mi vuole non mi merita, no? Ecco. Tu non mi vuoi e io me ne vado, così impari. Allora, Luca Vari, responsabile investment banking di JCI Capital, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Da Londra da tantissimi anni, lei ha vissuto anche la pesantissima crisi finanziaria post fallimento Lehman Brothers, quando da quel 15 settembre del 2008 sembrava che la finanza fosse praticamente sul baratro, che tutto il mondo finanziario era letteralmente finito, uno scenario anche lì inedito, un fallimento di una banca decretato nel giro di un weekend. Che differenza vede fra quel momento e quello che è maturato stamattina sui mercati finanziari, Vari? Allora, al di là della reazione, chiamiamola emotiva, dei mercati questa mattina, insomma, era facilmente prevedibile. Io sono qui a Londra, stanotte mi sono alzato un paio di volte. Ah, quindi lei, insomma, comunque, tutto sommato se l'è dormita, non è stato uno di quelli un paio di volte. Ho visto i primi risultati che comunque davano in vantaggio Brexit, più o meno avevo capito qual era l'indicazione finale. Mi sono svegliato stamattina tranquillo, ho fatto colazione ai miei figli, mi hanno chiesto che cosa significa, gli ho detto che è come il diamante, c'ha mille sfaccettature e quindi è difficile dire qualche cosa oggi. Che cosa c'è diverso da Lehman? Lehman è stata inaspettata, era veramente, come si dice in inglese, uncharted territory. Siamo arrivati alle 8 della domenica e Lehman doveva essere salvata da qualche banca, si sono svegliati il mattino dopo che non era successo. Quindi il mercato si è trovato veramente in una situazione inaspettata, senza bussola, senza riferimenti, senza nulla. In questo caso è vero che negli ultimi giorni i sondaggi e i bookmaker davano in vantaggio il Remain, però in the back of our mind, quindi un retropensiero c'era sempre che comunque qualcosa potesse andare storto, perché comunque i sondaggisti in UK, diciamo, non hanno una grandissima attendibilità. No, quindi, diciamo che si faceva più affidamento sui bookmakers. E questo dovrebbe essere già comunque sia testimonianza del fatto che l'incertezza era più alta di quella che noi percepivamo. Senta, Vari, allora noi abbiamo interpellato questa mattina perché lei, con la sua società di lavoro, fa anche una cosa molto interessante: accompagna le società italiane che vogliono quotarsi in borsa ma che decidono di farlo non sulla borsa italiana ma su quella inglese. Allora, intanto ricordiamo che dal 2007 le due borse sono integrate, Milano è di proprietà di Londra, e questo soggetto finanziario entro qualche tempo dovrebbe completare anche l'integrazione con la Deutsche Börse, quindi con la borsa di Francoforte. Due aspetti: primo di tutto, come vede questa integrazione secondo lei? Allora, mi pare che mi avevano mandato dei comunicati qualche giorno fa da Borsa Italiana, dove da contratto non esiste la possibilità che l'accordo salti, ed era stata contemplata anche la possibilità di una Brexit che non avrebbe messo in discussione appunto la esistenza di questo soggetto finanziario. potrebbe cambiare qualcosa nell'operatività appunto di Borsa Italiana integrata con il London Stock Exchange, e l'integrazione con Francoforte potrebbe essere compromessa? Adesso sono tutte ipotesi che mi stanno venendo in mente adesso, vari, ma insomma sono state prese anche in considerazione? Allora, oggi è un pochino presto per parlarne. Secondo me si andrà verso comunque un'integrazione, ok? Magari ci sarà rallentamento, sicuramente sarà bumpy, insomma, l'avvicinamento all'integrazione, visto quello che è successo. Però, ripeto, è una risposta azzardata, ma secondo me non dovrebbero esserci problemi. Senta, invece, per quello che riguarda invece esatto, le imprese, esattamente, ci dica un po', per quale motivo molte aziende, soprattutto le piccole, non hanno voluto in tanti anni quotarsi a Milano, preferendo invece la piazza finanziaria nel segmento dove sono proprio rappresentate le piccole e medie imprese, quella di Londra? So che apprezzavano particolarmente anche la velocità del processo di quotazione, un po' meno burocratico rispetto agli adempimenti chiesti dall'Italia. Qual era il vantaggio delle aziende che avete seguito voi appunto del quotarsi là piuttosto che in Italia? Allora, io farei un attimino un passo indietro. Noi come CSI accompagniamo le aziende italiane sia alla ricerca di capitale di debito, quindi finanziamenti che possono essere senior oppure subordinati, e li accompagniamo in quella che è la quotazione nell'AIM UK. Io ieri ero con due aziende italiane qui a Londra e abbiamo visto due importanti investitori. L'accoglienza è stata ottima, okay? Queste due aziende sono alla ricerca, una di equity, okay? E l'altra comunque di debito. Gli investitori si sono concentrati su quelli che sono i punti di forza. Vari, aspetti un attimo che la stiamo un po' perdendo, adesso vediamo, riproviamo. Allora, lei ieri era con due imprenditori ai quali stavate spiegando le modalità di accesso al capitale appunto inglese. Vari, ci riproviamo? Ok, riparto. No, non la sentiamo. No. Guardi, Vari, ripristiniamo la telefonata perché vorrei farle completare questo ragionamento, perché a questo punto siamo tutti così incuriositi dal capire che cosa attrae l'imprenditoria, perché l'imprenditoria italiana è attratta dal mercato finanziario appunto londinese, quando soprattutto la piccola e media impresa italiana in Italia invece non vuole quotarsi. Un flash con un altro analista finanziario, abbiamo Matteo Paganini, FXCM Italia, buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuto. Allora, le vostre analisi, cosa dicevano fino a ieri sera? Lei è a Milano, ma ha un filo diretto con le vostre sale operative di Londra. Cosa dicono gli operatori di Londra rispetto a questo risultato referendario? Paganini, insomma, questa sterlina Soros aveva detto meno 15%, tutto sommato è scesa anche un pochino meno per poi adesso recuperare. Che cosa vi spaventa, vi preoccupa o vi attrae rispetto allo scenario nuovo che si è manifestato in queste ore? Allora, innanzitutto gli scenari di risk-off che erano stati ipotizzati in caso di Brexit si sono rispecchiati proprio sul mercato, per cui il mercato è stato perfetto e molto pulito dal punto di vista dei movimenti. Molto velocemente, dollaro che si è rafforzato come valuta rifugio contro tutto, tranne che contro lo yen giapponese, il quale è stato in grado di rafforzarsi di più rispetto al dollaro americano in qualità di valuta rifugio ancora più pregiata, tra virgolette. Borse che sono andate a scendere e oro che è andato a salire. La sorpresa, la cosa che ci piace tra virgolette di questa reazione, è che la sterlina sta andando a rimbalzare, allontanandosi di parecchio dai punti di minimo. Questo potrebbe essere un buon segnale, non ancora valutabile. Dovremmo arrivare a metà di settimana prossima per capire se il rimbalzo è un rimbalzo strutturale però, consistente. Esatto, però tendenzialmente il fatto che abbiamo rimbalzato dai minimi comunque assoluti a 1,40 è un qualcosa di buono, dovuto anche a mancanza comunque di liquidità sul mercato. Se guardiamo gli spread che ci sono tra prezzi denaro e prezzi lettera, sono spread molto larghi quotati dai market maker. Questo significa che la liquidità è un po' rarefatta sul mercato, e quando la liquidità è inferiore, servono meno soldi per muovere di più il mercato. Senta, quindi... non è che questa rarefazione della liquidità porta, perché vedo già qualche ascoltatore che lo tema, adesso non è il tempo di aprire una parentesi sui mutui, ma non è che ritroveremo un po' di rarefazione del circuito interbancario, le banche cominceranno a non riprestarsi denaro fra di loro per come dire, portare gli spread di nuovo su livelli altissimi, come abbiamo visto all'indomani del fallimento di Lehman Brothers? Questo scenario è contemplato, Paganini? Sì, direi proprio di sì, è una paura che abbiamo, anche perché strutturalmente l'interbancario non si sta muovendo bene e questo potrebbe essere un fattore di ragionamento. Ecco qua, mi toccherà fare una puntata sui mutui lunedì, già mi immagino, mi tocca metterla subito in cantiere. Ti ha dato uno straordinario assist. Anche se di straordinario non c'è nulla. Sono quelli che ho fatto io da ieri ad oggi. Grazie a Matteo Paganini, ritorno per gli ultimi due minuti di tempo che abbiamo a nostra disposizione con Luca Vari, sempre da Londra, JCR. Capital, società che porta anche le aziende italiane al processo di quotazione in borsa sul segmento delle piccole e medie imprese, appunto della City. Vari, cosa ci stava raccontando prima? Ha visto ieri due imprenditori italiani? C'erano due imprese italiane qui a Londra, siamo andati a due grossi fondi, okay, che sono interessati a investire nell'equity o nel debito delle aziende. L'accoglienza è stata, con tutta l'incertezza che c'era nell'aria, l'accoglienza è stata ottima. Secondo me, al di là di quello che saranno magari una settimana o un mese di turmoil sui mercati, aumenti della volatilità, gli investitori esteri guarderanno sempre con estrema attenzione al tessuto imprenditoriale italiano, con estremo interesse, perché la nostra spina dorsale sono queste imprese e ci sono delle eccellenze. Il mio timore è che magari se questa decisione, a mio avviso, e magari posso sbagliare, scellerata da parte dei lettori inglesi, porterà quelli che possono essere riflessi ancora più gravi sulla tenuta dell'Unione Europea, magari vedremo un aumento di quello che è il premio al rischio che queste imprese devono pagare per poter andare sui mercati internazionali. Questo è troppo presto per dirlo, però ripeto, prevedo delle giornate intense di lavoro anche per voi. Grazie a Luca Vari, investment banking, responsabile dell'investment banking di JCI Capital. Sono le 11:27, fra un minuto ridiamo la linea alla regia, vi racconterò anche quello che sta accadendo adesso in borsa. Vedo solamente un piccolo segnale che ci pare positivo, mi aggrappo a tutto, meno 9,4% adesso per Milano, perdeva più di 10 punti, 11 punti e mezzo in apertura, perché lo vedo un piccolo segnale, uno spiraglietto di luce. Da due cifre di perdita adesso diventa una, vanno ancora piuttosto male le altre piazze finanziarie, meno 7 Parigi, meno 6 Francoforte, ma non voglio anticipare nulla perché adesso appunto do la linea alla regia, poi rifacciamo la borsa in diretta. Per quello che riguarda invece te, Nicoletta, vogliamo anticipare il tema di cui l'avevamo già anticipato, perché abbiamo naturalmente dato spazio al disorientamento, anche alle reazioni emotive dei mercati, del mondo economico e finanziario. Adesso vorremmo lasciare parlare un po' il nostro cuore. Che cosa abbiamo provato quando abbiamo sentito o letto la notizia? Quale emozione ha caratterizzato il nostro risveglio stamattina? Delusione, rabbia, impotenza, un senso di ingiustizia? 800 24 00 24. Proprio ieri, insieme ad Alberto Pellai, parlavamo delle scelte, di come a volte sia difficile fare delle scelte e anche accettarne le conseguenze. Adesso qualcuno ha scelto per noi. Tutto è qualcosa sta cambiando, non solamente nei mercati, dal punto di vista economico e finanziario, qualcosa è cambiato anche per noi, no? Nella prospettiva di vedere il futuro, dell'idea dell'Europa. Ne parliamo tra poco con Alberto Pellai. Intanto aspettiamo le vostre telefonate, i vostri interventi, il polso della situazione degli ascoltatori di Cuore Denari. JP Morgan Asset Management vi presenta Cuore e Denari. Siamo tornati insieme, ci siamo anche cambiati di posto e Deborah, devo dire che in questa giornata somiglia un po' a Polly Polipo, ha 13 mani perché ha 8 monitor di fronte, abbiamo attenzionato il disorientamento e anche la reazione emotiva dei mercati e delle conseguenze economiche, ma noi vorremmo anche adesso dare un po' voce al nostro cuore, no? Oggi è un certo senso un day after, no? Nessuno di noi si sente uguale a ieri, ci sentiamo diversi, forse arrabbiati, delusi, impauriti, alcuni ascoltatori già ci scrivono invece per raccontarci la loro gioia, insomma sicuramente l'effetto sorpresa gioca un ruolo importante, non ce l'aspettavamo di aprire gli occhi stamattina e di trovarci in uno scenario completamente diverso, un po' come se andassimo a dormire in una baita di montagna, aprissimo le finestre e ci trovassimo di fronte al mare con le barchette, ma nello stesso tempo credo che ci sia anche un po' una frustrazione che si manifesta quando si è costretti magari a subire un cambiamento deciso da altri, ma probabilmente è andata a incrinarsi anche quell'idea dell'Europa che tutti noi coltivavamo e con cui ci stavamo abituando a prendere le misure. Allora vi rinnovo, ma lo state già rispondendo al nostro invito e vi ringraziamo molto, a raccontarci cosa avete pensato quando avete appreso la notizia, qual è l'emozione che ha caratterizzato i primi minuti e che cosa avete pensato alle conseguenze economiche, politiche o al futuro dei vostri figli, al vostro lavoro. In linea con noi è tornato a trovarci Alberto Pellai. Ciao Alberto. Corretta, ciao Deborah, buongiorno a tutti. Che ci ha accompagnati in questi due giorni, perché ieri a poche ore dal referendum riflettevamo a voce alta sui meccanismi, no, che generano un po' le nostre decisioni, su quanto per alcune persone sia facile scegliere, su invece quanto sia difficile per altri, e poi eravamo naturalmente arrivati a conclusione del nostro percorso, perché una volta che uno poi prende una decisione ne deve poi affrontare anche le conseguenze. Il divorzio dalla Gran Bretagna e dall'Unione richiederà i suoi tempi, ma intanto Alberto, ciascuno di noi deve fare conti con qualcosa che è cambiato, ad esempio anche dei modi, no? Possiamo anche mettere un po' in discussione dei modelli, dei modi di pensare, ad esempio dall'Unione fa la forza, qualcuno di noi adesso potrebbe pensare ad esempio ognuno fa per sé, e psicologicamente questo è sicuramente un cambio di passo significativo. Ma guarda, è un cambio di passo molto intenso, molto potente, a me come psicoterapeuta fa paura, cioè credo che l'evoluzione di noi umani, ma in generale l'evoluzione, ha sempre puntato sulla cooperazione, ha molto più lavorato sul concetto di l'unione fa la forza rispetto a quello di ognuno fa per sé. In qualche modo ha fatto sì che all'interno del branco, all'interno del gruppo, poi sopravvivessero le caratteristiche migliori, ma non a servizio del più potente, bensì a servizio del gruppo intero. E c'è proprio un modello, tra l'altro elaborato da uno psicoterapeuta italiano che è famoso in tutto il mondo, quello dei sistemi motivazionali, e lo psicoterapeuta è Gianni Liotti. Effettivamente noi funzioniamo molto bene nella vita quando ci sintonizziamo con il nostro sistema motivazionale cooperativo, e quindi nel momento in cui siamo in cooperazione e attuiamo un po' in pratica il concetto che l'unione fa la forza, riusciamo a dare il meglio di noi. Tutte le volte che stiamo male, tutte le volte che ci disorganizziamo, che ci perdiamo, è perché siamo entrati nel sistema motivazionale agonistico, è quello dove magari cerchiamo di avere il sopravvento sull'altro, ma poi il rischio concreto è che spesso rimaniamo soli, isolati e senza risorse. Ecco perché come psicoterapeuta io sono più nella direzione che dobbiamo pensare che l'unione fa la forza e che in termini evolutivi l'umanità si è proprio strutturata e sviluppata intorno a questo concetto. D'altra parte questo della cooperazione è un messaggio che anche Papa Francesco ha mandato in diverse occasioni, anche se vogliamo dire è un messaggio molto laico, rivolto anche ai laici, proprio perché poi nella vita pratica ci rendiamo conto che quando una persona è in difficoltà a cambiare la situazione può essere proprio l'aiuto di più persone che si mettono insieme per fare. Sì, io credo che proprio anche in una prospettiva laica anche questi messaggi, no, a sostegno non tanto di un credo religioso ma di un umanesimo che è solidale, ci dovrebbero far riflettere. Credo che tutti noi, tra l'altro, anche noi italiani, veniamo da una storia di migranti, abbiamo davvero pezzi della nostra nazione in tutti e cinque i continenti e credo che la cosa che in questo momento è così faticosa è che i cambiamenti arrivano con una velocità impensata e impensabile rispetto alle capacità di adattamento dell'essere umano, cioè fino a 20 anni fa ci stavamo domandando se costruire l'Europa, quindi stavamo provando a cambiare questa cosa, a diventare una congregazione di stati. E in questo momento, mentre ancora stavamo costruendo, sviluppando processi di adattamento, lavorando sulla complessità, ecco che arriva un cambiamento radicale e non si fa più Europa. Io penso che una delle cose che è molto faticosa dal punto di vista psicologico è costantemente lavorare su un cambiamento che poi cambia di nuovo e noi non riusciamo perciò ad adattare. Cambia troppo rapidamente per permetterci di riprendere il passo. Ma Alberto, intanto via WhatsApp arrivano tanti messaggi, daremo anche la linea a Luigi da Perugia e Antonio dalla provincia di Monza e Brianza che hanno composto il nostro numero verde, quindi vogliono riflettere con noi a voce alta. Devo dire che le emozioni, cioè volendo fare un borsino delle emozioni, Deborah, perché facciamo anche, no, non solamente i mercati ma anche le emozioni, certo, salgono e scendono, rabbia, delusione, gioia, sono queste che le emozioni che emergono dai messaggi che ci mandano i nostri ascoltatori. Andiamo da Luigi che ci chiama da Perugia. Buongiorno Luigi. Buongiorno a tutti. Io pensavo di essere fuori dal coro dicendo che per un certo qual modo ho avuto una forma di sollievo stamattina quando ho sentito che sono usciti dall'Europa, perché tanto avevano agevolazioni e privilegi, secondo me, secondo il mio modesto parere, che altri paesi non avevano. Pensano di poter fare da soli e è giusto che lo dimostrino. Ecco, molto semplice. Questa è la posizione di Luigi, grazie sì. Luigi, che ci aiuta un po' a... semplice se volete, però ma credo che sia allineato. D'altronde Luigi, qualcuno vuol far da solo, come ha detto anche il vostro... Ecco, si organizzano, no? C'è chi... Anche perché Luigi, lei ci porta ad affrontare, a fare un'altra riflessione, spesso per comprendere i fatti che sembrano molto al di fuori delle nostre portate, più grandi di noi, gli esperti consigliano di provare a tradurli nel quotidiano. Ad esempio, l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa è, possiamo paragonarla all'uscita di un amico, un socio, un compagno, di un collega da un nostro gruppo, no? Qualcuno se ne va e gli altri si interrogano, possono dire vabbè, meglio così, oppure si possono sentire abbandonati e delusi. L'intervento di Luigi ci porta a fare una riflessione su questa, in questa direzione. Ma penso però che tutte le volte che qualcuno esce da un gruppo ci siano due valutazioni da fare, cioè chi è la persona che sta uscendo, era effettivamente una persona incapace di stare all'interno del gruppo, e poi che cosa succederà alla squadra, cioè il fatto, quando noi siamo dentro un gruppo non abbiamo soltanto la responsabilità di noi stessi e una valutazione soggettiva relativa a che cosa ci faccio io qua dentro, ma c'è proprio un noi da costruire. Un gruppo è tale non perché è la somma di singoli, ma perché i singoli si sommano e sinergizzano nella costruzione di una nuova identità. È un po' questo, no, il messaggio anche che provavo a condividere prima, cioè costruire un'Europa unita, una cosa che prima non c'era e che è in realtà fatta da molte differenze, molte culture, molti punti di partenza così lontani fra di loro, comporta necessariamente fatica, lavoro, rinunce, ma la prospettiva in realtà, perché lo stiamo facendo? La prospettiva in realtà è quella della speranza, cioè uniti siamo più forti. Io penso che in questa tendenza un po' isolazionista e separatista, se vado a vedere in una prospettiva psicoterapeutica qual è l'emozione dominante che spinge in quella direzione, spesso è davvero la paura. Cioè la infatti paura... voglio leggerti un messaggio che ci arriva da un ragazzo via WhatsApp, 26 anni, Erasmus in Spagna, laurea in economia, lavora in una banca a Londra con colleghi francesi, tedeschi, olandesi, irlandesi, quindi proprio è l'Europa, no? inglesi. È quell'Europa che ci piace, quella regione. Da qui lavoro sul mercato europeo continentale, quindi sarà uno dei tuoi ospiti fra qualche tempo. Con un particolare focus sull'Italia. Questo ragazzo giovane ci scrive: grande dispiacere, grande delusione e grande paura per quello che accadrà. Alberto. E credo che è una voce, secondo me, proprio una voce reale, realista, probabilmente con cui mi identifico anch'io, quindi faccio un po' magari il tifo per la sua visione dei fatti. Però davvero i nostri figli, molto probabilmente, che sono un po' cresciuti dentro a questa prospettiva di cambiamento, che ancora coltivano nel domani molto di più la prospettiva della speranza rispetto a quella della paura, in mezzo alle mille difficoltà hanno continuato a sentirsi in parte, per esempio, italiani, ma in parte anche europei, hanno cominciato a costruire in mezzo a tante fatiche e difficoltà una prospettiva differente per il loro futuro e per il futuro di tutta la loro generazione. Io credo che, per esempio, se oggi intervistiamo i ragazzi, non troviamo molti ragazzi così proprio di pancia contenti rispetto a quello che sta facendo la Gran Bretagna. No, l'idea dell'Europa sicuramente è stata metabolizzata dai ragazzi anche nelle, no, nelle, la distribuzione dei voti. Si è visto, no, che questa idea dell'uscita, dell'abbandono era più condivisa dalle persone più anziane. Antonio, dalla provincia di Monza, Brianza, le chiederei se ci fa da cavaliere, perché ci traghettiamo. Antonio, ci fa da cavaliere? Volentieri. Allora, abbiamo un cavaliere che ci accompagna a sentire le informazioni sul traffico e poi ritorniamo subito dopo insieme, tra poco. Cuore e denari. Ecco, siamo tornati insieme ad Alberto Pellai e agli ascoltatori di Cuore Denari. Stiamo un po' commentando questo day after. Dal punto di vista emotivo, che cosa si è mosso dentro di noi? Abbiamo fatto così un po' un punto della situazione, di quali sono le emozioni che caratterizzano questa mattina, una mattina in cui ci sentiamo tutti un po' disorientati, anche se alcuni ascoltatori ci scrivono, no, per raccontarci questa sensazione di sollievo, di liberazione. Voglio leggervi anche un messaggio che mi è piaciuto molto, che ci manda un ascoltatore via WhatsApp, Simone da Perugia. Fin da piccolo immaginavo di vivere in un continente libero, in pace, senza confini. Ora questo sogno inizia a svanire a colpi di ignoranza ed egoismo. Alberto, leggo questo messaggio, teniamolo lì perché noi abbiamo il nostro cavaliere, ci siamo fatti accompagnare da Antonio dalla provincia di Monza e Brianza. Antonio, eccomi qua. Eccola. Ma io invece devo dire che questa mattina, quando ho preso questa notizia, sono rimasto molto amareggiato e molto deluso, perché io ho 63 anni e vengo da una generazione dove l'Europa è sempre stato un sogno. E come diceva Simone, ore, no? Me, questo sogno sembra svanito. Sì, perché secondo me forse in questi anni, tra virgolette, la colpa principale è stata quella di aver fatto troppo poco Europa. E troppo poco Europa ha portato a far prevalere anche in questi anni qualche egoismo nazionale di troppo, magari vediamo la Germania, o il potere del cosiddetto mondo bancario, finanziario, che rispetto a una certa giustizia sociale, una certa equità, eccetera, sembra che abbia preso il sopravvento. Questo ha creato tale malumore che ci ha portato in questa situazione. Però io sono veramente amareggiato. Antonio ci descrive, no, la sua amarezza, ma Alberto, mi sembra che, da come noi prendiamo un po' la situazione, ci sono ascoltatori che sono arrabbiati, altri delusi, altri che dicono meglio così. Altri totalmente disinteressati, perché esatto, c'è chi ci racconta che è in vacanza e proprio non trascura totalmente la cronaca di queste ore. Chi come Simone, no, fa riferimento ad un sogno che inizia a svanire, ma di fronte a questa situazione c'è chi si interroga. Alberto è andato giù. Alberto, beh, me lo dico a te, questo pensiero che poi condividiamo con Alberto e i nostri ascoltatori. C'è chi si interroga e dice: bene, ho avuto una delusione, che cosa abbiamo sbagliato? E invece c'è chi addossa la colpa agli altri. Sono gli inglesi, per carattere e per... vivono già nell'isola, come ci scriveva sì, un ascoltatore. Poi c'è tutta l'attribuzione di responsabilità anche agli elettori particolarmente avanti con l'età, per cui persone che non credono appunto a questo disegno europeo, conservatorissimi. Ecco, è un esercizio questo che stiamo facendo, che non cambierà sicuramente la situazione, no, ma ci aiuta un pochino a... Ma sai, adesso siamo tutti analisti politici, un po' come tutti i commissari di calcio, esatto, no? A lavorare un po', ed è questo è l'esercizio che vogliamo fare in questi pochi minuti, a lavorare un po' a capire come ci poniamo di fronte alle situazioni, in questo caso che non è decisa, non è stata decisa da noi, ma come sottolineava Antonio, forse non abbiamo abbastanza tutelato e fatto l'Europa. Alberto, non so che pezzetto tu ti sia perso, comunque... Comunque è caduta la linea, ma il messaggio era: di fronte alla nostra reazione, di fronte a questo, a questa situazione, ma con anche a tante altre, noi possiamo anche ricavare delle informazioni su di noi, no? Come prendiamo le cose, diamo la colpa agli altri, tendiamo, è colpa degli inglesi, è colpa dei politici, è colpa delle banche. Oppure, come il nostro ascoltatore ci raccontava, dice, probabilmente non abbiamo fatto abbastanza, non abbiamo investito abbastanza, tutelato questa idea, e il sogno adesso si è infranto. Alberto? Credo che in questo momento la cosa che dovremmo elaborare dentro di noi è che emozione sto sperimentando, perché chi si sente soddisfatto dei risultati di questa consultazione dovrebbe domandarsi cos'è che lo fa così felice, quali sono gli aspetti intorno ai quali sente questa zona di soddisfazione. Per esempio l'ascoltatore che ci ha chiamato e ci ha detto: così adesso ci fanno vedere un po' da soli che cosa fanno. Ecco, direi che è una soddisfazione molto povera, perché in realtà non va a vantaggio di nessuno, è quasi vendicativa, no? Hai sì, però viene quando ad esempio, no, da un gruppo di lavoro uno ti abbandona, dice vi lascio lì, e uno dice va bene, vediamo se sai camminare con le tue gambe, perché è un po' ci si sente un po' abbandonati e quasi offesi, perché non vuoi stare con me, non mi riconosci, abbastanza qualità, abbastanza, no, un profilo abbastanza alto perché gioca anche nell'abbandono a vedere il giudizio negativo, perché tu abbandoni qualche cosa che non ti piace. Certo, però se io sono convinto invece della bontà del progetto intorno al quale avevo speranze e stavo lavorando, questa diventa di nuovo una zona dove si ricomincia a ricostruire, cioè si deve riaprire il dialogo, al confronto, ci si deve mettere in relazione, in interazione, e penso che noi non possiamo certamente cambiare il destino della Gran Bretagna, però oggi dovremmo capire se vogliamo sentirci più britannici o più europei come approccio, perché quello che ecco, ci stanno dicendo... Ed è questo anche che mi stanno segnalando i nostri ascoltatori, perché molti di loro mi scrivono: sto pensando, il primo pensiero è stato per i figli, no? Per i figli, per i quali, no, ci sognavamo un'Europa, no, di un certo tipo, e invece adesso devono fare i conti con qualche cosa di diverso. Silvana, buongiorno dalla provincia di Ravenna. Buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie di avermi accolto nella vostra trasmissione. Mi avete chiesto qual è stato il mio primo pensiero. Certo. Il mio primo pensiero è stato un WhatsApp con i miei figli, che sono tutti e due in Inghilterra, che hanno avuto una grande opportunità, come tantissimi altri nostri giovani italiani che stanno lavorando e formandosi in Inghilterra, e che si sono sentiti quasi, insomma, rifiutati, diciamo, perché effettivamente il loro futuro diventa molto, molto, molto, molto problematico. Mio figlio è già andato a iniziare le pratiche per chiedere la cittadinanza inglese. E che cosa possiamo fare? Pensiamo a loro soprattutto. Pensiamo a un'Inghilterra che in realtà io ero pro ovviamente il mantenimento dell'Inghilterra, non per questioni puramente utilitarie, utilitaristiche, ma diciamo credo molto in non Europa per il unita. Cuore di mamma, ma per anche in ovviamente perché sono lì, e quindi è chiaro che l'unità dell'Europa favorisce anche i miei figli, però in realtà è un bel disastro, perché sono milioni i nostri giovani che sono là, non dimentichiamolo. Quindi il pensiero di Silvana è rivolto ai giovani, ai figli, Spero che conservino l'interesse a mantenere questa forza lavoro vivace, fresca, appunto sul loro tessuto produttivo, e non facciano in modo che veramente tutta questa emorragia poi verso... Non credo che Alberto fosse in linea, perché so che l'abbiamo intercettato all'università, ma un tuo ascoltatore, un tuo esperto, ha descritto l'inizio della sua mattina, ha detto: fatto colazione, ho preparato la colazione ai miei figli e mi hanno chiesto che cosa cambierà. E lui prontamente ha detto: beh, è come un diamante, ci sono tante sfaccettature. Sicuramente questa, mi è piaciuto questa paragone, perché in realtà anche noi dovremmo forse raccontare, specie se abbiamo dei figli piccoli a casa, che qualcosa è cambiato. Alberto, non sempre, per quali sono le parole giuste? Ma io fatico a trovarne, devo dire che mi identificavo molto nell'ultima telefonata di Silvana, mi sembra, per chi di noi è genitore, ha figli, sta veramente un po' crescendo la generazione del futuro e non la vede più, no, come una generazione che ti vivrà nella casa di fianco, che andrà a lavorare a 3 chilometri di distanza, cioè stiamo davvero crescendo dei figli che dovranno avere una grande mobilità, e pensiamo al mondo, in particolare all'Europa, noi che siamo europea, come una terra che offre anche opportunità. Quindi in questo momento forse la visione, no, di noi genitori e quella che cerchiamo di comunicare ai nostri figli è proprio che dentro alla fatica però ci sono tante opportunità. In questo momento questa modalità di dire che ognuno farà per sé, ecco, è un po' come dire: io ho un piccolo bottino, un piccolo capitale, la mia piccola zona di sicurezza e protezione, questa me la tengo, me la conservo, nessuno la intacchi. Ma è davvero un po' il pensiero di qualcuno che in qualche modo non guarda avanti, cioè tende a stare in quello che, nella sicurezza che ha, e non si predispone a un cambiamento che invece potrebbe essere molto utile per tutti. Adesso dobbiamo cambiare. Adesso dobbiamo cambiare, e noi siamo in cammino, e ci hai dato uno straordinario assist, perché questa è la parola chiave di Deborah, che è pronta per gli aggiornamenti. È una grande giornata di opportunità professionali per me, meno 9,8% per il FTSE MIB a Piazza Affari, meno 8 punti a Parigi, meno 6 punti e mezzo a Francoforte, Londra meno 4,56%, così il mercato azionario europeo raccoglie il risultato referendario britannico dopo il forte ribasso dell'Asia. Ma sui mercati torneremo tra poco con il giornale radio. Nicoletta, e noi torniamo con Cuore allora, Denari. Certo, noi torneremo lunedì. Come intanto ringraziamo Alberto Pellai e i nostri ascoltatori che ci hanno chiamato per intervenire, ci hanno accompagnato, ascoltato. Continuate a farlo, potete scriverci naturalmente, noi siamo qua. Cuore Denari non chiude mai. Buona giornata a tutti.